Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre. Saluto Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Gianluca, io sento puzza. E tu? Beh, devo dire anch'io. La puzza è di gas. No? Questo mi serviva per lanciare il nostro argomento di oggi che mi hai raccontato poco fa fuori dalla diretta, e devo dire che la cosa non mi sorprende, no? Il fatto che ogni tanto ci sono questi periodi dove c'è sempre qualcuno che ti vuole vendere qualcosa. A volte ci vogliono vendere enciclopedie, a volte ci vendono batterie di pentole, a volte vengono in casa per chiederci di cambiare il contratto della luce. In questo caso, adesso ci racconterei bene, ci sono delle persone che fanno il porta a porta per cercare di vendere dei rilevatori di gas, cioè degli aggeggini che rilevano la presenza di gas in casa e quindi utili a salvaguardare, insomma, un eventuale scoppio o incendio nella nostra abitazione. Sì, Francesco, intanto noi anche nella presentazione che abbiamo fatto a livello di associazione abbiamo detto a volte tornano, e anzi loro tornano spesso, perché c'è nella nostra, qua stiamo parlando della nostra regione in questo caso, comunque parlo da Venezia, ma comunque anche in altre città, c'è un ritorno di questi individui. Chi sono? Partiamo subito da chi sono, così svegliamo subito al mistero. E in realtà sono dei semplici venditori porta a porta che lavorano per un'azienda bresciana che vende questi aggeggi, quindi fondamentalmente sono dei venditori porta a porta. Però vanno nelle case, entrano preferibilmente dove c'è una persona anziana, magari sola, e qua comincia, diciamo, il bello, tra virgolette, nel senso che queste persone creano il terrore praticamente nella persona, nell'interlocutore. Entrano in cucina, dicono che il tuo impianto a gas è pericolosissimo, che ci sono assolutamente delle fughe, che comunque in ogni caso ce ne sono delle normative europee che entro l'anno obbligano a dotarti di strumenti, di rilevatori contro le fuoriuscite di gas. Ed è a quel punto che loro dicono: ah, fatalità, noi abbiamo questi rilevatori, e io direi che sarebbe il caso di comprarli immediatamente, perché il pericolo è palese, insomma. Per cui, ecco, acquistate questi rilevatori, vedrete che sarete più tranquilli. Cosa fanno queste persone? Addirittura sistemano questi rilevatori, li mettono in casa, li mettono appunto vicino ai fornelli, e poi chiedono chiaramente il conto, e il conto è molto salato, perché è 300 euro per ogni rilevatore, per ogni attrezzo. E stiamo parlando, Francesco, di in realtà di strumenti che si possono trovare facilmente su internet a qualche decina di euro, per intenderci. Ecco, quindi già qua si capisce un po' dove sta la fregatura, diciamo. Sì, allora la fregatura e il raggiro non è tanto contenuto in un'attrezzatura, in uno strumento che comunque può avere la sua funzione. Il raggiro è contenuto nelle presentazioni che fanno questi personaggi, perché appunto... Sì, nella modalità. La modalità, Francesco, mi lantano di normative che non esistono, magari cercando di creare un po' di confusione con l'obbligo di posizionare e di installare le valvole termostatiche, che questo esiste e deve essere fatto entro l'anno, ma a questo ci pensano gli amministratori di condominio e comunque le assemblee condominiali. Invece queste persone arrivano in casa, tra parentesi, legittimate dagli stessi amministratori, che concedono a queste persone di mettere un avviso all'ingresso dei palazzi, quando a nostro giudizio non dovrebbero permettere assolutamente a queste persone di entrare nelle case, e perché appunto poi si presentano in realtà come rappresentanti di aziende del gas proprio, quindi persone che si occupano di sicurezza, ecco, si presentano un po' così. In realtà entrano nelle case e vendono veramente strumenti di poco valore a tantissimi soldi. Come esperienza della scorsa settimana, tra l'altro, che abbiamo potuto ascoltare, che abbiamo potuto ricevere, è quella di una signora di oltre 90 anni, che purtroppo ha fatto entrare questi venditori in casa ed è stata convinta a comprare addirittura tre rilevatori, quindi ha speso una cifra attorno ai 900 euro che ha consegnato subito ai venditori. Ora, Francesco, avvertiamo subito, anche per non creare il panico, questa non può essere definita una truffa nei termini classici, sì, perché in realtà c'è l'acquisto di un prodotto, c'è l'acquisto di un macchinario, però chiaramente c'è un raggiro sotto. Certo. Io qua ti vorrei chiedere, ma la possibilità di recedere da un, perché evidentemente c'è una proposta, un acquisto, ma c'è anche la possibilità di recedere da un contratto del genere. Ecco, tu sei puntuale come sempre nella domanda, perché è esattamente quello che volevo aggiungere, cioè queste persone rilasciano anche una copia commissione, che è un contratto, quindi non è una truffa in tutti i sensi. Nella copia commissione è scritto chiaramente come si può recedere. Il recesso chiaramente deve essere effettuato entro le canoniche 2 settimane, entro i canonici 14 giorni, mm-hmm, come sempre in questi casi. Ci sono però delle modalità che ci lasciano un po' perplessi. Sì. Allora, si chiede il recesso con la solita raccomandata con ricevuta di ritorno, mi raccomando, la ricevuta di ritorno è molto importante, nella quale appunto si deve anche inserire l'originale della copia commissione. Comunque c'è tutto scritto nella copia commissione stessa che viene rilasciata da questa azienda. Bisogna chiaramente inviare i rilevatori, quindi anche là c'è un piccolo costo per il pacco. Restituire, sì, per il pacco. La cosa però che lascia un po' perplesso, insomma ci facciamo alcune domande, è che chiedono anche il codice IBAN per restituire i soldi. Ora chiaramente qua mettiamo in guardia le persone: se lasciate il codice IBAN, comunque informatevi bene presso la vostra banca per capire insomma se questa mossa sia potenzialmente pericolosa o meno. Non dovrebbe esserlo, perché nel momento in cui si avverte la banca di non accreditare nulla a questa società non sono problemi, però insomma è meglio informarsi prima. Comunque recedere si può, basta farlo velocemente entro i canonici 14 giorni. Va bene, quindi prudenza, insomma attenzione a chi vuole vendervi dei rilevatori di gas. Questa cosa sta andando molto dalle parti di Venezia Mestre. Non escludiamo che il giro si allarghi anche in altre province del Veneto. Grazie a Gianluca Codognato, ricordo sempre il sito associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate i numeri di telefono per chiedere eventuali aiuti o consulenze. Ciao Gianluca. Grazie a te Francesco, un saluto. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.